Palla spicchi con Carlo Genta. Rims out. Here's Jared Jack asking for a screen up high. Slips behind the back. Oh, il logo from New Jack City. When you move the rock, you get good looks. Capone, there's Bargnani. Open it. Bene sì, signori, bene sì, buongiorno, puntata super lusso extra oggi. Andrea Bargnani, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti, ciao. E grazie di essere con noi, ciao Flavio Suardi. Ciao Carlo, ciao a tutti. Franco Piantanini in redazione, Fabio Cantadori in regia, tra poco anche Coach Peterson e gli ascoltatori naturalmente come possono mancare oggi. 800-24-00-24, il numero verde. Allora Andrea, da dove partiamo? Dalla stagione di Toronto, io direi. Quindi partiamo con le domande difficili. Stagione negativa alla fine, quella di Toronto. Playoff, ci credevate tutti? Sì, beh, era l'obiettivo principale, soprattutto dopo l'annata precedente, che è andata ancora peggio di questa qua. I playoff, diciamo, era l'obiettivo minimo. Abbiamo fallito. Dopo lo Star Game abbiamo avuto un calo clamoroso e abbiamo vinto tipo una partita in un mese, il mese successivo allo Star Game. E quindi alla fine siamo usciti. Il rimpianto è quello, direi, no? Sì, sì, no, quel mese nero. Sì, sì, Chris Bosh si era fatto male, è stato fuori, diciamo, 3 settimane buone. Io ho avuto qualche problema, ho dovuto tornare in Turchia, quindi sì, ci ha tolto un po' di ritmo, senza dubbio. La tua stagione invece, t'hanno rotto le scatole da morire per essere più aggressivo, per prendere più rimbalzi, per attaccare di più il ferro, per avere un'altra faccia, mi sembra che tu li abbia accontentati. Al di là dei numeri e delle cifre, che in NBA hanno un'importanza enorme, sì, però esatto, basta guardare le tue partite per capire che quest'anno è stato un Andrea Bargnani diverso. Sì, beh, no, io sono soddisfatto di quest'anno, anche perché l'anno precedente erano tutti contenti, diciamo, di quello che avevo fatto. Quindi quest'anno sono riuscito a migliorare in tutte le voci statistiche, comunque come hai detto te in NBA hanno un'importanza fondamentale, quindi non posso non essere soddisfatto, voglio ancora migliorare però sono contento insomma di dove sto. E quanto è difficile continuare a mantenere un ritmo costante in un campionato che vi chiama a tantissime partite nel giro di pochi giorni? Probabilmente è questo uno dei principali problemi che un giocatore abituato all'europea affronta in NBA. Sì, è molto difficile, magari non dal punto di vista fisico quando sei ancora così giovane, però dal punto di vista mentale trovare la motivazione a tutte queste partite consecutive è dura, soprattutto quando fai magari 4 partite in cinque serate. Alla quarta arrivi proprio scarico, soprattutto di testa, è dura scendere in campo. Coach Dan Peterson, buon pomeriggio. Ciao ragazzi, un abbraccio Bargnani. Ciao coach, come va? Tutto a posto? Ciao, complimenti. Grazie, mi hanno detto che parla sempre bene di me. È vero? Non sempre. No, infatti era ironico, no, scherzo. Se tu non giochi bene io devo dire oh Bargnani. Giustamente. Giustamente. Comunque sono anche contento che farai parte della nazionale italiana quest'estate e in nome di tutti ti ringrazio anche per questo. Grazie mille, grazie coach. E poi parliamo della nazionale. Coach, la stagione di Andrea Bargnani, ne stavamo parlando ora, quella di Toronto Raptors l'altro giorno tu l'hai definita, quando sono finiti fuori dai playoff, un fallimento, perché i playoff ci credevano. Sì, ma io non ho usato la parola fallimento, ma sono delusi loro, perché Toronto aveva la cosa male, era un quinto posto, record tipo molto sulla parte vincente, non so, 31-24 non mi ricordo, avevano vinto un numero di partite, a un certo punto hanno vinto non so, di 31 partite hanno vinto non so, tipo 20, tanto per dire, quindi avevano un grandissimo momento, la squadra stava giocando bene. 2 o 3 cose sono successe, ovviamente come sa Andrea perfettamente. Uno, infortunio a Bosch, che la squadra non ha reagito bene a questo qui, e poi quando è rientrato Bosch ha fatto fatica a reinserirsi di nuovo in questo contesto qui. E lì 10 partite veramente sono state disputate in una maniera, hanno vinto 2 su 10, tanto per dire, e questo gli è costato per una sola partita di playoff. E quindi io so che questa è la cosa che brucia a Andrea Bargnani, a Marco Bellinelli, a nostro Maurizio Gherardini, a Brian Colangelo e coach Jerry Triano e tutti quanti. E ovviamente noi di Sport Italia, noi facciamo tifo per i Toronto Raptors, i New York Knickerbockers, che sono i nostri due squadre, se posso dire, protette, sì, tra virgolette. Sì, e anche per quelli italiani in Eurolega che, come sappiamo, non sono andate a Parigi. Senti, coach, a proposito di Eurolega, è andato tutto, il campo di Parigi ha incoronato la grande favorita, yeah, è andato tutto secondo pronostico, però... Ti ricordi, avevamo parlato venerdì scorso con Sasha Djordjevic, io un applauso al Partizan lo faccio lo stesso. Oh, assolutamente, ma tu sai, in tutta la storia della Final Four, c'è stata una sola partita che è andata supplementare. Nel 0-5 Panathinaikos ha rimontato da meno 22 a mandare la partita supplementare contro CSKA a Mosca. E poi dopo due supplementari hanno vinto la partita, cioè rallentando molto l'inizio della partita finale fra Maccabi Tel Aviv e Tau Vittoria. Comunque, esattamente, Partizan ha giocato due partite a supplementare in tre serate, e potendo vincere tutte e due, anzi, forse la finale sarebbe stata ancora più bella, più, diciamo, strette misure, disputato meglio con Partizan e non Olympiacos, che Olympiacos è stata veramente piatta come una frittata, cioè Childress assente, Clisa ha fatto un canestro da tre per aprire la partita e poi ha fatto un solo punto da lì in poi, cioè i due stelle strapagate da NBA non hanno veramente rispettato le attese per loro, sì, e sono alla fine della fiera stati asfaltati da questa difesa asfissiante di Barcellona. Clesa mi ha deluso moltissimo. Hai visto qualcosa, Andrea? No, delle Final Four no, nelle Final Four no. Barcellona l'hai visto giocare qualche volta? Sì, l'ho visto un paio di partite. Cosa ne sì pensi? Beh, penso che pazzesca, avrebbero potuto giocare anche in NBA quest'anno, probabilmente, dici? Sì. Stagione regolare, forse. Beh, almeno fisicamente c'erano. Sì, fisicamente c'erano. Poi stagione regolare certamente possono giocare in NBA. Playoff magari è un'altra storia. Ecco, però coach, e anche noi qui in studio, un plauso a Basile, vogliamo farlo, che finalmente tira su questa Basile, coppa. Guarda, Basile è stato, a parte il fatto che ha giocato benissimo, è venuto dentro, classico Basile, tiro da tre, sbagliato, tiro da tre, sbagliato, tiro da tre dentro, cioè proprio classico Basile, non gli interessava di aver sbagliato, campione qual è. E poi è stata una gioia per noi, per Sport Italia, abbiamo avuto lui in un'intervista proprio esclusiva lì proprio dopo la partita, e lui veramente era, non si riesce a definire, pieno di gioia, cioè lui soddisfazione, gioia, nel 99 su quel campo lì ha vinto gli europei con l'Italia, poi ha fatto il Final Four, fine finale con Fortitudo 0-4, è andato come è andato e poi ha vinto questo qui, quindi veramente la grande carriera di questo grande uomo e grande campione è stata veramente incoronata con questa, e lui era veramente felice, aveva il piccolo trofeo duplicato di miniatura di quella grande in mano, e veramente era emozionatissimo e felicissimo, quindi è stato lui importante nella partita, i suoi canestri e la sua difesa, ha recuperato la palla, ha preso lo sfondamento, ha fatto altre cose, il grande Gianluca Basile. Grande il Baso, eh? Sì, ho avuto la fortuna di giocarci un anno in nazionale, due anni fa, è veramente un grande, sì, poi come ha detto il coach, è un grande uomo, è uno che si sbatte, si allena sempre come se fosse l'ultimo allenamento, l'ultima partita, fa anche spogliatoio, quindi veramente un grande, come ha detto il coach. Io non voglio dare consigli a Pianigiani, perché c'è già il calcio che, insomma, nel quale facciamo tutti i commissari tecnici, però come anello di congiunzione, come uomo spogliatoio, un pensiero a Basile, che in maglia azzurra ci andrebbe in bicicletta tutte le volte, non lo faresti, coach? Ma guarda, Basile anche le hanno chiesto della nazionale, sai, adesso arriva il mio treno qui che arriva, sì, anche un rumore assordante comunque e lui ha detto, ma la mia età sono lunga stagione e qui eccetera, però per me in nazionale bisogna prendere in considerazione sempre un giocatore come Basile. Va bene. Coach, ti lasciamo prendere il treno. Un rumore infernale qui, quindi. Grazie, coach, ci sentiamo venerdì. Buon viaggio. Ciao. Bagnano, un abbraccio. Ciao. Complimenti ancora. Ciao, ragazzi. Ciao. Lasciamo il coach prendere il treno. Assolutamente. Lasciamo il coach prendere il treno. Palla spicchi. Dunque torniamo con Andrea Bargnani e con gli ascoltatori, perché vogliamo farlo permettere al popolo di Pallaspicchi di parlare oggi con il mago. Primo è Francesco, provincia di Varese, buongiorno. Buongiorno a voi, ciao Andrea. Ciao Francesco. Dica. Niente, io parlo un po' da detto di lavoro, io sono un giornalista che segue per un quotidiano di Varese le vicende da pallacanestro, quindi vabbè. Io ad Andrea vorrei fare questa domanda, parliamo ovviamente di nazionale. L'anno scorso eravamo, insomma, probabilmente si è toccato uno dei punti più bassi della storia della nostra nazionale, eravamo nel subito dopo la mancata qualificazione agli europei. E devo dire che Bargnani è stato probabilmente il primo, ma anche l'unico, a dire molto sinceramente, senza peli sulla lingua, ehi ragazzi, qui c'è un problema, qui c'è qualcosa che non va. È stato molto chiaro, ha detto delle cose anche probabilmente politicamente anche scomode, però le ha dette, e poi magari in seguito anche con la sua uscita si è parlato di queste cose e sono successe delle cose. Da giornalista io credo che questa sincerità sia proprio qualcosa che manchi un po' nel nostro mondo, nel mondo della pallacanestro, anche tra i giocatori. Andrea ha imparato di là dall'oceano a dire le cose come stanno senza paura di tutto quello che può succedere dopo. Ma sì, sono d'accordo con te, l'altro anno abbiamo toccato per un certo verso il fondo. No, non è che l'ho imparato dall'altra parte dell'oceano, penso, sai, crescendo, voglio dire, uno matura anche, impara a parlare di più in generale. Io non ero uno che parlava tanto e basta, ecco, adesso magari mi esprimo un po' di più. E riguardo l'anno scorso, no, niente, mi hanno chiesto cosa secondo me non era andato e l'ho detto, sì. Come hai detto te, se nessuno lo dice, poi si continua ad andare avanti per il verso sbagliato, se non cambia niente. Invece adesso vedo c'è molta energia, c'è molta voglia e curiosità di vedere come questo nuovo ciclo riparte. Senti, quanto ha pesato la presenza di Simone Pianigiani nella tua scelta di renderti disponibile? Ma la mia scelta io l'ho fatta indipendentemente da tutto. Prima di tutto perché mi rode aver fatto 2 anni così negativi in nazionale e mi dà fastidio vedere l'Italia in questa situazione. Quindi da sportivo, sono una persona competitiva e voglio aiutare la squadra a fare meglio. Con Simone ho un bel rapporto, siamo già sentiti un paio di volte al telefono, un rapporto diretto, che quindi è la cosa più bella, ecco, tra allenatore e giocatore. Volevo chiederti, Andrea, tu hai già giocato in nazionale, hai già potuto evidentemente assaggiare la differenza, no? Non soltanto in nazionale ma anche col club, tra pallacanestro europea e pallacanestro americana. È così diversa come tipo di pallacanestro, come intensità, come tecnica, le due cose sono così diverse secondo te? Sì, è molto diversa per tanti aspetti. Il primo che mi viene in mente, il campo è più piccolo in Europa, gli spazi sono molto ridotti. In America io ho molto più spazio per giocare uno contro uno, magari anche partendo da fuori dalla lunetta in palleggio, un palleggio in mezzo alle gambe. In Italia, in Europa è molto più difficile fare questo, perché non c'è la regola dei 3 secondi difensivi, quindi ti possono aspettare dentro l'area, sono tutti molto più chiusi, ci sono meno giochi in isolation, quindi sì, è un gioco diverso. Tu sei nato molto presto negli Stati Uniti, Gallinari è venuto molto presto. Un'altra corrente di pensiero è quella che dice forse era meglio magari giocare in un top club europeo con un allenatore top come Messina, come insomma i soliti, no? Scariolo, Pianigiani, eccetera, eccetera. Maturare e andare di là come superstar riconosciuto e magari con una o due Coppe dei Campioni in tasca. Cosa ne pensi? Beh, penso sì, una o due Coppe dei Campioni in tasca sarebbe proprio... Come Ginobili, come tanto Ginobili, per dire. Come la perfezione. Io ho giocato comunque prima di andare in NBA 3 anni in un top club europeo, sì. Perché quando c'ero io era ancora un top club in Europa, con uno dei migliori allenatori, con Messina, poi Blatt. Poi sai, quando ti si presenta l'opportunità di andare tra... Io sapevo che sarei stato tra i primi, diciamo, 5-6 del draft, al 100%. È difficile alla fine dire di no, perché non sai mai cosa può succedere la stagione, certo, dopo, se rimani in Europa. Quindi quando ti si presenta un'occasione del genere, il sogno di tutta la vita davanti, è un rischio, è difficile dire di no. Quindi... C'è mai stato un giorno in cui hai detto maledizione il giorno che l'ho fatto? No, mai. Ci credo. Forse le prime 2 settimane del primo anno, che giocavo veramente poco, tipo 7-8 minuti a partita, ero abbastanza... Cioè ero innervosito, ecco, diciamo così, però dire no, mannaggia, perché l'ho fatto, no, per carità. Massimo, Cremona, poi Bergamo, Matteo. Massimo, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno. Dica. Allora, io volevo chiedere al Mago una cosa più tecnico-economica, nel senso che... Tecnico-economica? Attenzione. Un po' di paura, dica. Come l'ho seguito l'altro giorno a Sky e ha detto che oggi sei a Toronto, domani col salary cap ti possono spostare a Charlotte, a Los Angeles, dove capita. Ah. Io volevo chiedergli se lui che ormai sono 3 anni, 4 anni che vive là, che ha contatto con questa dimensione fuori dal nostro mondo... Se il vecchio continente non potrà mai arrivare ad avere delle regole così. Parli delle regole del salary cap, queste cose qua? Tutto quello che le cose qua, di tutto quello che è mercato attorno all'NBA, cioè... Ma no, secondo me per ora no, è ancora molto lontano, perché tutto si basa sul principio che le squadre non retrocedono, quindi ci sono 30 franchigie che rimangono là, non è che una va giù, una va su, e tutte giocano insieme per fare il business, per fare più soldi possibile. Quello è il business dell'NBA, un pacchetto che poi vende dappertutto, anche in Cina, più che negli altri paesi negli ultimi anni. E in Europa no, siamo ancora, insomma, è un sistema completamente diverso, andrebbe rivoluzionato proprio tutto. Ci sono delle regole comunque precise anche che le franchigie devono rispettare, per anche proprio dei parametri economici anche abbastanza ristretti per far parte dell'elite di queste 30 franchigie, cioè non è facile fare la franchigia NBA, voglio dire. No, beh, certo, non è facile assolutamente, sì, non so di che parte, delle regole, c'è il salary cap, certo. Sì, il salary cap che non si può sforare, lo puoi sforare, paghi la multa, ogni dollaro che sfori paghi un dollaro di multa. Ad esempio New York l'ha sforato di brutto negli ultimi 2-3 anni, anche Los Angeles. Con risultati un po' diversi. Sì, no, ma infatti i soldi alla fine contano poco, no, in NBA, per fare la squadra. È un affare, insomma, l'NBA è business, è gestita secondo questi principi non replicabili in Europa. Non vedo come possano essere replicati in Europa, se ne è parlato un sacco anche nel calcio, però bisognerebbe capire bene, conoscere bene qual è il sistema dell'NBA prima di dire applicabile da noi, perché non lo si fa, eccetera, eccetera. Semplicemente non ci sono le medesime circostanze, le medesime condizioni. Matteo Bergamo, buongiorno. Matteo? No, Matteo... però Andrea diceva una cosa, intanto che recuperiamo Matteo. Andrea diceva una cosa importantissima, lui dice ci sono queste franchigie che lavorano per fare il business e quello è il business dell'NBA, cioè questo è un principio che in Europa e in Italia non c'è, cioè noi giochiamo per un principio diverso probabilmente. Ma sì, ma poi in Italia io non vedo neanche un campionato senza retrocessioni, cioè se ne è parlato tanto, wild card, riforme, campionati eccetera, però... Nel campionato italiano togli il sangue e l'arena della retrocessione, insomma non siamo come gli americani. Sì, no? Più che altro togli la promozione a tutte le serie che stanno più giù, quindi uccidi tutte le società che stanno più in basso, dovresti cancellarle proprio da quindi non si può fare. Non si può fare. Andrea, la Benetton la segui? Beh, io seguo il campionato italiano in generale, guardo i risultati su internet, le partite non le vedo, però i risultati li guardo sempre lunedì e martedì su internet. Benetton che fa fatica a riemergere dopo anni difficili, tu quell'ambiente lo conosci particolarmente bene, sei cresciuto in quell'ambiente, ti sorprende questa difficoltà della Benetton di tornare ad alto livello? Sì, beh, hanno fatto fatica, sono stati anche sfortunati, sai, il caso Lorbeck, i problemi che hanno avuto con tesseramenti. Sì, l'ambiente lo conosco bene, anche se ormai dell'ambiente in cui sono cresciuto io non è rimasto niente, a parte ovviamente Gilberto Benetton, che è ovviamente il creatore, ha fatto tutto lui, lì se non c'era lui non neanche si partiva. Quindi le persone che la gestivano quando la gestivo io sono non ci sono più, anche gli allenatori, i giocatori, non c'è proprio più nessuno. Uno è venuto con te. Uno l'ho rubato, sì. Uno l'hai rubato. E gli altri sono. Hai parlato di Gherardini, quanto è stato importante la sua presenza soprattutto nei primi anni della tua esperienza in America, cioè chiaramente avevi un appoggio non indifferente. Vabbè, ormai Maurizio stiamo insieme da quasi 8 anni, stiamo insieme come se fossimo sposati, stiamo insieme da 8 anni e no, ormai è anche un grande amico, lui per me è stato un sostegno fin dal primo giorno, ancora prima di arrivare a Treviso, quando mi parlò la prima volta, insomma è una specie di guida. Senti, la tua NBA com'è? La giornata tipo a Toronto? Intanto che sei qui mi devo un po' di curiosità. Sì. La tua giornata tipo qual è? Ma se non gioco, sono 2 giornate tipo. Se quella giochi. In cui gioco è noiosissima perché mi alzo, vado a fare shooting around, cioè l'allenamento walkthrough della mattina, dove non facciamo niente praticamente, e poi prendo il pranzo dall'arena, perché c'è il cuoco nello spogliatoio, quindi ci fa il pranzo, vado a casa, mangio, vado a letto, appena finito di mangiare, dormo 3 ore e mezza, mi sveglio, entro in doccia, faccio la doccia, vado alla partita, e gioco, e poi ecco. Pennica lunga, eh? Sì, quel giorno della partita proprio... C'è la partita, e quando non c'è? Ci alleniamo la mattina, verso le 11 di solito, e quindi ci alleniamo, finisco verso le 2, 2 e mezza, poi faccio computer, internet, sai, Skype, queste cose qua, parlo con i miei amici, famiglia, poi vado a cena, esco, qualche amico ce l'ho, insomma adesso sono 4 anni che sto là, quindi esco un po' la sera. Uscire è parola grossa perché eri meno 15. Sì, esco nel senso esco di casa. Sì, poi tutto questo quando non ci sono tutte le trasferte, quando sì, non certo, giocate 4 volte su 5. Se non devi partire, sì, chiaro. Altrimenti la giornata è sull'aereo e non si discute. Palla spicchi. Eccoci tornati, Andrea Bagnani qui con noi. Allora, la tua giornata tipo me l'hai raccontata, la tua Toronto invece com'è? Che fa freddo lo so, l'abbiamo detto prima, ma la tua Toronto com'è? Ah, a me la città piace molto, a parte che è bella, cioè oggettivamente sì. È bella, sta sul lago, i palazzi sono belli, quindi è bella da vedere in cartolina. Poi ho trovato tanti posti ormai che mi piace, ristoranti, locali, sai, è una città molto viva comunque, c'è l'università, è piena di gente, poi gente che viene da ogni dove, è molto multiculturale. Cosmopolita. Sì, alla grande proprio. Ma vai anche tu come il gallo in tutti i ristoranti italiani? O sperimenti cucine diverse? No, sperimento, mi piace molto il sushi, quindi vado a mangiare sushi, però sì, diciamo, di base mangio italiano, sì, prima della partita, cioè preferisco mangiare italiano. Sì. Andrea, la stagione di Marco Belinelli invece, com'è stata? Secondo te, secondo lui, che cosa ti ha detto, quali sensazioni ha avuto? Perché eravamo tutti molto fiduciosi, no? Penso sia stata un po' come quella della squadra, a metà, è stata metà fortunata e metà un po' meno fortunata. Penso le prime partite, prima dello Star Game, era nelle rotazioni, ha avuto l'opportunità di giocare, di far vedere quanto vale. Poi nel finale di stagione è uscito dalle rotazioni di Traiano, del coach, e quindi... Ha sofferto un po'. Beh, non è mai bello quando non giochi, il giocatore non si diverte, questo è ovvio, sì. Dunque, vediamo se Matteo non ce l'abbiamo fatta, magari ci riproviamo, Domenico da Roma, speriamo. Buonasera, buongiorno Domenico. Ciao, Domenico. Intanto volevo fare i complimenti ad Andrea per quello che sta facendo. Grazie. Io volevo intervenire circa la nazionale italiana. So che Andrea parteciperà prenderà parte ovviamente alle eliminatorie degli europei, giusto? Sì. Ecco Andrea, io volevo chiederti, a me è sembrato che dalla nazionale sia mancata un po' di personalità, oltre che insomma uno schema. Adesso lo schema dovrebbe essere fornito dal nuovo coach, però io credo che tu debba prenderti la responsabilità della leadership di questa squadra. Pensi di poterti prendere carico di questa responsabilità? No, premettendo che la leadership non è che te la prendi, te la danno i compagni, te la dà insomma la squadra che è intorno. No, io ci tengo a fare bene, voglio fare, insomma, dopo l'anno che ho fatto in NBA devo fare bene anche in nazionale, ci tengo molto, sono carico e non vedo l'ora di iniziare. Ma fisicamente come stai? Perché si era detto rischio, operazione, eccetera, eccetera. Fisicamente sto ok, poi dal punto di vista del recupero fisico, noi giochiamo con le amichevoli 90 partite che equivalgono a 3 campionati italiani, quindi ovviamente abbiamo bisogno di riposare di più. Beh, normale, una spremuta sì. L'NBA è una centrifuga. Vorrei tornare a questa stagione, a uno dei momenti più significativi secondo me di questa stagione, derby, il primo derby contro New York. Sì. Li avete vinti tutti, se non sbaglio, no? Sì, chissà Gallinari come è contento. Primo derby contro New York, onestamente c'era tutta l'Italia che guardava quella partita, e voi immagino lo sapeste questo, no? Sì, no, ero molto emozionato. Sì, non capita spesso, ecco, di essere tanto emozionati visto tutte le partite che facciamo, però lì abbiamo sentito veramente che c'era molta attenzione dall'Italia, i giornalisti erano tanti, sono stati una quindicina, sì. E di solito non si muovono così in massa per vedere una partita di pallacanestro, poi tutti i parenti, amici che chiamavano, mi raccomando stasera, dai ti guardo, mi raccomando, quindi è stato emozionante, è stato divertente. E se non ricordo male c'era lo speaker dei Knicks, cioè chi ha presentato la squadra dei Knicks è stato il nostro amico Simone Sandri, sì. Mentre l'altro speaker, quello normale, solito del Madison Square Garden, se non sbaglio ti ha presentato From Spain. Sì, infatti ci ha rimasto malissimo, sì. Anche perché era l'Italian Night, la sera degli italiani al Madison, quindi... Ma ci vuole tutta, Sono rimasto un po' male. Ma tu, visto che gli hai chiesto Carlo prima della stagione di Belinelli, io volevo chiederti anche qualcosa sulla stagione di Danilo Gallinari. Dopo la prima, che è stata sicuramente difficoltosa, questa te l'aspettavi così? Insomma, hai avuto modo sia di incontrarlo, magari anche di seguirlo? Cioè, che giudizio dai sulla sua stagione? Penso che abbia fatto una bella stagione. Ha avuto la fortuna di stare in una squadra che era perfetta per migliorare, perché New York sia l'anno scorso che quest'anno partivano già con l'idea di fare male, con l'idea di, insomma, di far crescere i giocatori più importanti, e Danilo è uno dei giocatori più importanti di New York, quindi penso che abbia sfruttato questa occasione al meglio. Ha giocato tanti minuti, ha preso tanti tiri, ha fatto tanta esperienza, quindi un'ottima prestazione, un'ottima stagione, sì soprattutto utile in chiave futura. Alla fine era la prima che riusciva a fare di fatto, no, nella... invece l'estate, quest'estate che cambierà la faccia dell'NBA, tu come te l'aspetti? Adesso ovviamente io la aspetto corso, al mare, perché a me più che me l'aspetto. E però se vi rubano Chris Bosh, no beh certo, dal mare stracci la gazzetta, Chris Bosh è libero, quindi sì, se ce lo rubano nel senso lo firmano, sì no, sarà interessante vedere, sai, tutti questi movimenti, LeBron, Wade dove andranno, se rimangono. Però ecco, tu che sensazione hai? Per dirti, LeBron secondo me dipende dal fatto se vincono o no. Se vincono rimarrà sicuro, perché sì, dopo 7 anni che lo insegui, che insegui il titolo, lo vince e vai via, è un po'... Non ci sta. No, Wade non lo so, Wade probabilmente rimane, perché come fai ad andare via da Miami? Troppo bello. Però è l'ultima volta che esco al primo giro. Questa è l'ultima volta. Quindi o gli fanno la squadra o magari va via anche lui. Quindi anche lì probabilmente gli faranno la squadra. Loro hanno molto spazio nel salary cap, perché Jermaine O'Neal, che prendeva 21 milioni o qualcosa quest'anno, gli scade il contratto, quindi al prossimo anno hanno tutto questo buco di salary cap da riempire, possono prendere un altro giocatore forte. Andiamo in provincia di Cosenza. Emilio, buongiorno. Buongiorno. Dica. Dunque, io devo sapere, grande giocare nell'NBA, c'è una grande differenza, molto differente con giocare con dei campioni del caso di LeBron. E a proposito di LeBron, sì, lei pensa che lui andrà ai Knicks? Però anche se lui andrebbe ai Knicks, non dovrebbero fare una squadra ancora più su misura, perché lui è un, diciamo, un giocatore non è per la squadra, è un giocatore intorno al quale la squadra va costruita. Partire comunque, dai, adesso al di là di tutto è un bel partire. Sì, certo che giocare ogni dannata sera contro questa gente non è facile, per tornare al discorso fisico di prima. No, è duro, giochi contro i migliori, sì, però anche, insomma, bella... Quando arrivi la sera magari hai vinto, sei contento, hai giocato contro il meglio che c'era, quindi vai a dormire tranquillo. Che è più bello da guardare dal campo? Chi è il più bello da guardare? Sì, più bello, ad esempio. Non nel senso. Il più exciting, mettiamola così, secondo te? A me piace molto Paul Pierce da guardare. Proprio l'idea di stare tranquillo, sembra che va a 2 all'ora, molto tecnico, poi insomma fa sempre canestro. Sì. Paul Pierce secondo me è uno dei più lisci, come si dice, smooth, come dicono gli americani. Sì. Io LeBron James l'ho visto quando era ragazzino ad Atene, 2004, era la metà di adesso, onestamente, più o meno, ma si vedevi già, nonostante i piedi un po' a papera, vedevi già che era un giocatore pazzesco, anche se quello che non finisce mai di sorprendermi saranno i miei gusti un po' europeizzanti sul basket a Ginobili. Ginobili è una cosa certe volte fuori dal normale, considerati tutti gli infortuni che ha avuto, considerato il fisico, considerato l'usura, considerato tutte queste cose, considerato il modo di giocare, perché lui si sbatte contro il muro ogni 3-4 volte a partita, no? Sì, ma ne parlavamo una mattina a Shooting Around, che Ginobili è l'unico che ha vinto, l'unico giocatore al mondo che ha vinto tutto, ha vinto, gli manca solo il mondiale. Sì. Se vince il mondiale, ma non viene, non mi va, pare. No, ha detto già che non sarebbe andato. Se no, è quello che ha vinto più di tutti: Eurolega, sì, scudetto, NBA 3 volte, Olimpiadi e tutto con l'MVP. Giocatore pazzesco. Palla spicchi. Eccoci ancora insieme, Andrea Bagnani qui vicino a me. Andrea, io continuo con le curiosità. Sì, vai. Quella sera a Los Angeles con l'Apo che mi toglie la palla e la partita. No, io sai che io ho la maglietta dei Lakers. C'è in giro una magliettina con dei Lakers con chiaramente invece che Lakers, Lapers con la P di Lapo, proprio per quello che è successo. La voglio assolutamente. Io ho incaricato Franco Piantani, gli ho detto: dobbiamo organizzare una puntata con Lapo e Pozzecco. Insieme. Con la polizia qua fuori, sì, e l'elmetto io e te in testa. No, è stata, a parte la delusione che abbiamo perso all'ultimo secondo con Brian che tira cadendo indietro da fuori il campo a occhi chiusi su una gamba. Lapo ha toccato la palla, se ne è parlato tantissimo, e lì felice è rimasto. Sì, fantastico. Sì. sono rimasto abbastanza stupito. Adesso non riesco neanche a raccontarla perché l'ho raccontata talmente tante volte che mi si impappina il cervello. Dimmi piuttosto una cosa, ma se invece di essere Calderon esatto. era, non so, Chris Bosh, Jamario Moon, un qualunque giocatore, non dico Artest, non dico Artest perché non vado, però se era un altro, non era Calderon che... ragazzo europeo, brava persona, uh-huh. cioè, se era un altro, cosa succedeva? No, non succedeva niente, perché no. se solo provi a toccare uno nel pubblico, penso che ti entrano nel conto da solo e ti rubano, sì. ti fanno una multa che te la ricordi. Però la cosa che mi ha stupito a fine partita è che si può fare, cioè, sta al buon senso dei tifosi non farlo, però non è che l'arbitro dà una palla contesa o palla noi. Come se si può fare? Si può fare, cioè... non è che si deve fare, che incitano a farlo, però se la palla esce dalla riga virtuale del campo e come l'apo si alza e la tocca, cioè non succede niente, fa parte del campo, la palla viene fischiata fuori. Sì. Si può fare, l'ha fatto e non, gli arbitri... non è successo niente in quel senso. Sì, no, quello mi ha stupito. Io mi aspettavo una contesa o qualcosa, invece... Io invece ho un'altra curiosità da chiederti. I vostri rapporti con la stampa, nel senso, c'è tanto... avete diversi obblighi, o sbaglio, no? nei confronti dei giornalisti, cioè delle conferenze stampa sempre obbligatorie, magari sto sbagliando, però ecco, il vostro... E fa parte anche quello del vostro lavoro, insomma. Sì, beh, giornaliero. A fine allenamento i giornalisti entrano, aprono le porte gli ultimi 10 minuti dell'allenamento, sono tanti, perché sono tanti. Poi noi siamo anche, i giornalisti degli Stati Uniti, quelli canadesi, poi italiani, spagnoli, sloveni, quindi sono tanti, entrano e ci parliamo a fine allenamento. Senti, venendo ai playoff che sono in corso... Sì. La cosa che più sorprendente secondo me fin qui è stata Phoenix, è stato sì. Steve Nash che insomma, a proposito di omini di gomma, no? questo non lo butti giù neanche, sì. neanche con il fucile. Onestamente Phoenix così non me l'aspettavo, io avevo questa idea di San Antonio squadra da playoff, invece ne ha neanche visti. Sì, no, anch'io stessa cosa, non mi aspettavo che San Antonio perdesse 4-0. Finalmente Phoenix sta giocando bene, il gioco di Phoenix sta pagando dopo tanti anni e sono sicuramente la squadra che sta giocando meglio adesso, sono carichi, sono gasati e Steve Nash è un grande. Mezza chance con i Lakers non ce l'hanno, però io ho paura. Beh, è dura, è una squadra ancora più organizzata, se si può essere ancora più organizzati di San Antonio. C'hanno un grande allenatore e poi ce l'hanno tutte, cioè c'hanno il centro, l'ala grande, l'ala piccola, cioè proprio ce l'hanno forti in tutti i ruoli, anche dalla panchina. Se non ti piacciono quelli che iniziano, poi te ne mandano uno dalla panchina. Ma Artest ti ha marcato? Artest no, di solito marca. Poi noi abbiamo Ido che è grosso, quindi se c'è una piccola grossa come Ido, Artest marca botte, lui. Se c'è da pigliare le botte, mandiamo Ido. No, lui Artest gioca 3, io gioco 5-4. Ma sai quello quando gli dicono ci serve uno che. Che lo uccide. Che marca il giocatore più pericoloso, quello che fa canestro. Prova ad andare tu, Giorgio, provincia di Pesaro, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Buongiorno, signor Bargnani. Ciao, buongiorno. Io volevo, vi ringrazio dell'opportunità, volevo sapere se a quanto il ritorno in Italia del signor Bargnani, perché io sono a me piace vedere il gran basket, quindi mi manca molto come giocatore e non riesco a pensarlo lontano dall'Italia, anche in funzione del nuovo regolamento dell'anno prossimo, dove appunto ci sarà l'aumento delle distanze tiro dei tre punti, no? Quindi sarebbe il massimo rivederlo presto. Quando... che abbia successo in America sicuramente, perché è la sua fortuna, no? Certo, quando trovate i soldini alla scavo spara, magari, Bravo, ma io non dico peso, sono disposto a venirla a vedere anche dall'altra parte, mi piace il basket, quindi non ho In Italia in nazionale ovviamente torno in Italia quest'estate, poi se si parla di club, insomma, ancora un po', deve bastare. Almeno 5 anni mi pare di no, sì, da quello che ho capito. 5 anni sicuramente di no. Il contratto è già stato... Poi vedremo, insomma. Io dico sempre che mi piacerebbe tornare a Roma un giorno a fine carriera. Gallinari dice chiuderò la carriera a Milano. Sì, sì. Beh, lui ritorna, io vorrei iniziarla. Finalmente vedremo uno scontro tra Milano e Roma di quelli seri a un certo punto. Sì, o magari torniamo che siamo già cadaveri, neanche riusciamo a camminare. Vedi questo scontro da due vecchietti che... E soprattutto non ce la piglia l'aereo e andare fino a New York o a Toronto per vedere uno contro l'altro, insomma. Dionigi da Cantù. Sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, innanzitutto volevo salutare e grazie dell'opportunità per parlare con Andrea Bargnani. Ciao Andrea. Buongiorno. Ti do del tu perché sei giovanissimo. Sì, e quindi non m'offendo. Io sono, sono tra l'altro del ramo, faccio l'allenatore. A Cantù? A Cantù la pallacanestro un po' ce l'abbiamo nel sangue. Infatti. Un pochino sì, ecco. Anzi, diciamo meno male. Volevo chiedere ad Andrea, perché credo che tutti parlano di Andrea giustamente in NBA. Andrea, credo per arrivare in NBA abbia fatto, sicuramente abbia del talento, perché sennò uno non può arrivare, però credo che uno possa arrivare in NBA anche se ha il talento, ma allenandosi quotidianamente, impegnandosi. Mm-hmm. Io credo che soprattutto con la legge Bosman e si sia perso un po', diciamo, il lavoro sul settore giovanile, io credo che Andrea possa essere un promoter per tornare a fare credere alla gente e alle società nel settore giovanile. Mm-hmm. Non so se sei d'accordo, Andrea. Sì, sì, no, sono d'accordo. Io mi sono allenato ovviamente tanto, ho fatto tanti sacrifici dal punto di vista, questo discorso che fai degli italiani, sì, sono d'accordo, anche secondo me bisogna far giocare più italiani. All'inizio purtroppo bisogna obbligare le squadre a farli giocare, perché gli italiani adesso, se li confronti agli americani, non se lo meritano. Magari un giovane italiano non si merita di essere, cioè non è più forte dell'americano che arriva dal college. Però appunto, se fai un sacrificio e gli obblighi le squadre a giocare i primi anni, poi più avanti raccogli i frutti, perché gli italiani imparano alla fine. Sì, si è molto discusso, Andrea, ma adesso abbiamo un minuto, non è chiaramente un discorso che non possiamo fare sono molto accapigliati sui regolamenti e sul limite minimo di italiani. Io ti dico la verità, io sono per il professionismo, materia che tu conosci bene, quindi per le leggi di mercato. Secondo me serve a poco anche in prospettiva nazionale dire facciamo giocare 8 italiani e proteggiamo i loro posti. No, no, vabbè, 8 è senza dubbio una cosa indecente, però magari un minimo, un po' di più, un pelino di più. Anch'io sono per il professionismo, cioè se un americano arriva che è più forte deve giocare l'americano, perché deve giocare l'italiano che poi attira anche meno pubblico, attira meno gente, però sai, poi se gli italiani imparano diventano forti, poi insomma tutto il movimento. Certamente. Senti, non so come siamo messi con i tempi, però prima o poi a trovarci torni, se no veniamo noi in America. Vabbè. Non so, in qualche modo faremo. O al telefono come Dan Peterson, vi chiamo in aeroporto prima di salire sull'aereo. Sì, mi ricordo una notte con Simone Penigiani, erano le 11 qui e lui era a Mosca, appena partito, ma non per fare l'Eurolega, era l'anno prima, con l'Eurocup. Siena è diventata grande così. Grazie ad Andrea Vargnani, naturalmente. Prego, grazie a tutti. Sardi. Io volevo ringraziare moltissimo anche Chiara e Michele, che ci hanno dato la possibilità di avere oggi qui il mago Franco Piantanini in redazione, Fabio Cantadone in regia. Ci sentiamo venerdì prossimo, non dico che ci sarà Danilo Gallinari, però magari sì. Quindi continuate a seguirci naturalmente con lo sport. Ci sentiamo domani pomeriggio dalle 5 alle 6 per aspettare l'ultima di campionato e lo scudetto dell'Inter o della Roma lo scopriremo. Buona giornata a tutti.